Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Arrestato a Roma il guru di una setta, abusava di bambine e delle loro madri. Ci scrivevamo col boss, parlavamo di fede, un professore di Castelvetrano parla a Radio 24 dei suoi rapporti con Messina Denaro. Guerriglia a Gerusalemme nel giorno della rabbia, proclamato da Hamas. Inchiesta di Trani, oggi ispettori in procura, Berlusconi, giustizia d'orologeria, par condicio, oggi tocca alla vigilanza. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque la cronaca con l'arresto di un uomo accusato di violenze sessuali su donne e bambine. Ci colleghiamo in diretta con Andrea Viali che ci racconta tutti i dettagli. Andrea. Simone, sì, ha 62 anni, si chiama Danilo Speranza, quest'uomo che è stato arrestato oggi a Roma dalla polizia municipale, è il capo di una setta chiamata Re Mai, è una setta che è una sorta di comunità New Age fondata negli anni 80 e che conta un migliaio di adepti. Quest'uomo sosteneva di aver inventato addirittura un macchinario in grado di trasformare l'immondizia in cibo, un macchinario che gli avrebbe così permesso di risolvere il problema della fame nel mondo. In realtà, a quanto sta emergendo, avrebbe abusato di almeno una ventina di ragazzine, anche delle loro madri, erano quasi tutte residenti nel quartiere di Torbella Monaca, periferia della capitale. Secondo gli inquirenti, alcune delle minori che erano coinvolte in questo caso avevano problemi di tossicodipendenza e gli erano state affidate dalle famiglie proprio per allontanarle dalla droga. In cambio l'uomo si sarebbe anche fatto intestare beni e negozi che dovevano servire a finanziare i suoi studi. Ora è accusato di violenza sessuale anche su minori, truffa aggravata, false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, ma a quanto sembra rischia anche l'accusa di riduzione in schiavitù. Al suo arresto si è arrivati dopo un anno di indagini coordinate dalla procura di Tivoli, dalle quali sarebbe anche emerso che Speranza tentava in qualche modo di accreditarsi presso varie associazioni islamiche, avrebbe avuto addirittura contatti con gruppi fondamentalisti ed era in collegamento anche con il giornalista iraniano arrestato giorni fa a Milano con l'accusa di traffico internazionale di armi. Per il momento è tutto da Roma, Simone. Grazie Andrea. E la comunità Papa Giovanni XXIII si è attivata da diversi anni per contrastare il fenomeno delle sette. Donaldo Buonaiuto è responsabile del telefono antisette. Al microfono di Katia Caramelli spiega i meccanismi di reclutamento. Le metodologie sono le più svariate, dal adescare la persona attraverso per esempio il mondo della musica, moltissimi usano internet e ovunque ormai si trovano persone proprio che hanno il compito di diffondere attraverso volantini, libri, telefonate, degli inviti, dei corsi che anche a volte hanno la parvenza proprio di incontri buoni, diciamo, che possono aiutare la persona a migliorare il proprio stato d'animo, la propria salute mentale, nella carriera, nel lavoro. Non dimentichiamo che la maggior parte delle persone che cadono nel mondo delle sette, in queste trappole, sono persone che stanno passando momenti di grandi difficoltà e qui le psicosette, cioè quelle realtà in modo particolare che lavorano e sanno manipolare, lavorare sulla psiche delle persone, mettono in atto quella che viene definita la love bombing, cioè quell'esplosione di amore, di attenzione nei confronti della persona appunto fragile, in crisi, che serve proprio per adescare e reclutare. Molto difficile uscirne. È molto difficile perché poi scattano altre tecniche persecutorie, la persona viene resa insicura, instabile, le persone veramente devono soprattutto rivelarsi agli occhi di tutti come persone poco credibili, quindi dal farle diventare nevrotiche, esasperate, esaurite, l'importante è che devono come minimo mostrarsi agli occhi di tutti non più credibili. Donaldo, a Roma l'arresto di questo guru Danilo Speranza, 62 anni, della setta Maya. Avevate mai sentito parlare di questa setta? Avevamo sentito e siamo siamo molto contenti dell'operazione, stanno facendo un grande lavoro. 800 22 88 66, perché tutti coloro che sanno non facciano finta di non sapere, per dare aiuto e forza a chi magari ha paura. Restiamo a Roma e restiamo sulla cronaca. Questa mattina primi arresti per il raid in un internet point gestito da bengalesi, e tra l'altro si sta svolgendo il comitato per l'ordine e la sicurezza, che verte anche su questo. I lavori del comitato li sta seguendo la nostra Maria Chiara Grandis. Maria Chiara. Sì, buongiorno. Innanzitutto ricordiamo che sono 3 i fermi eseguiti questa notte dai carabinieri di Roma per il raid vandalico di domenica all'internet point in via Murlo alla Magliana. 2 dei 3 fermati sono minorenni. Tutti sono accusati di rapine e lesioni con aggravante della motivazione razziale. Proprio su questo punto indagano le forze dell'ordine, perché i ragazzi farebbero parte di una banda di giovani tra i 15 e i 20 anni che da tempo agirebbe nel quartiere della Magliana picchiando e minacciando gli immigrati. Secondo gli inquirenti, il raid di domenica sera sarebbe nato da una lite fra alcuni ambulanti bengalesi e gli italiani, che si sarebbero poi vendicati sfasciando il locale, ferendo 4 persone. Alle 17 di oggi pomeriggio, perciò, alla Magliana ci sarà una manifestazione spontanea delle comunità bengalese, senegalese e sudamericana. E come ricordavate, è iniziata proprio da circa mezz'ora la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Siamo qui a Palazzo Valentini, una riunione proprio per far luce sull'episodio di domenica, dice il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro. Alla riunione partecipa anche il questore Giuseppe Caruso. Ma si parlerà probabilmente anche dei fatti di questa mattina e poi dell'aggressione della scorsa notte ai danni del figlio del sindaco di Roma, Manfredi Alemanno, 15 anni, vittima di un pestaggio ai parioli da parte di un gruppo di 7 figli di immigrati. In questo caso, tuttavia, l'aggressione sarebbe dovuta a uno scambio di persona e perciò non sarebbe stata presentata denuncia. Da Roma è tutto, linea a voi. Grazie dunque a Maria Chiara Grandis. Passiamo a parlare di mafia. Ieri l'arresto di alcuni fiancheggiatori del boss super latitante Matteo Messina Denaro. In questa vicenda emerge un personaggio molto particolare che intratteneva una fitta corrispondenza con il boss. Lo abbiamo intervistato. Classe 1945, nato a Corleone, prima insegnante di lettere, poi sindaco di Castelvetrano. Oggi Antonio Vaccarino gestisce il Cine Marconi del paese del Trapanese, una sala storica tra le prime in Italia. Nel suo curriculum conta anche una condanna per traffico di stupefacenti e un'indagine da cui uscì assolto per associazione mafiosa. Ora di lui si vocifera di vicinanza ai servizi segreti per una corrispondenza un po' particolare firmata con lo pseudonimo di Svetonio, e che sarebbe finita prima sulla scrivania degli 007 del SISDE e poi nel fascicolo dell'indagine che ieri ha portato ad arresti eccellenti, fino a far dire che il cerchio si stringe attorno a Matteo Messina Denaro. Già, perché per 2 anni il professor Vaccarino avrebbe scambiato messaggi proprio con il superlatitante. Lui era Svetonio, il boss Alessio. Tutto vero? Il professor Vaccarino ci ha risposto così. Così dice il giornale, sì. È una cosa vera, non c'è dubbio. E quindi questi pizzini sono veri o no? Questa corrispondenza è una corrispondenza, diciamo, filosofico, religiosa, sociologica, se vuole. Queste lettere di Alessio, sì, arrivavano a lei? E le sue arrivavano ad Alessio? Diversamente non sarebbe stata corrispondenza. Di cosa parlavate? Di fede. Ma lei è riuscito veramente a contattare Matteo Messina Denaro? No. Assolutamente, perché se questo ci fosse stato, non c'è dubbio, sarebbe stato catturato già tanto tempo fa. Fatto sta che gli inquirenti questa corrispondenza l'avrebbero passata al setaccio, come ogni indizio per cercare di arrivare al superlatitante. Anna Migliorati, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora la politica. Al centro della discussione resta l'inchiesta della Procura di Trani, che vede indagati il premier Silvio Berlusconi, il direttore del TG1 Augusto Minzonini e il componente dell'autority delle telecomunicazioni Innocenzi. Ha parlato poco fa il presidente del Consiglio. Iniziamo però dagli aggiornamenti di cronaca giudiziaria. Michele Santoro è ancora a colloquio con i magistrati tranesi che si stanno occupando dell'inchiesta Rai Agcom, nella quale è indagato anche il premier Silvio Berlusconi. Santoro, che aveva detto sabato scorso che sarebbe stato ascoltato oggi, è arrivato al Palazzo di Giustizia di Trani poco prima delle 11 ed il colloquio con i magistrati è iniziato alle 11.15, dunque dura da oltre un'ora e mezza. È molto probabile che Santoro, documenti alla mano, abbia ribadito le accuse verso il premier di voler imbavagliare la sua trasmissione e alla Agcom di non essere uno un'authority indipendente. Insieme ai documenti, probabilmente lettere che dell'azienda RAI che potrebbero provare le sue accuse, non si esclude che Santoro possa aver anticipato ai magistrati anche la decisione di costituirsi parte civile. Quella di oggi è anche la giornata degli ispettori inviati dal Ministro di Grazia e Giustizia Angiolino Alfano per accertare responsabilità nella fuga di notizie. Dovrebbero incontrare oggi pomeriggio a Bari il PM Michele Ruggero. Quanto alla fuga di notizie, il clima è difficile. Ancora stamattina il procuratore capo Capristo ha infatti letteralmente cacciato i giornalisti che per il secondo giorno consecutivo stanno assediando il Palazzo di Giustizia. Vincenzo Rutiliano, GR24, Sole 24 Ore, Trani. E come si diceva poco fa, ha parlato Silvio Berlusconi, in diretta da Montecitorio, Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Una lettera scritta ai sostenitori del Club della Libertà, quella in cui il premier Silvio Berlusconi torna ad attaccare i giudici e parla di consuete accuse ad orologeria. Da quando sono scese in campo, l'alleanza ormai scoperta tra sinistra e una parte della magistratura interviene indebitamente nella campagna elettorale per influenzare il voto dei cittadini. Ci hanno provato in Lombardia e a Roma, dove non hanno consentito la presentazione delle nostre liste e hanno cercato di far credere a tutti che la colpa fosse dei nostri delegati. Ci provano anche con le ormai consuete accuse ad orologeria enfatizzate dai giornali compiacenti. Il riferimento è chiaramente all'indagine di Trani, dove il premier è indagato per concussione. Di fronte a questo attacco, dice Berlusconi, non possiamo rimanere indifferenti, dobbiamo reagire. Il premier invita tutti, quindi quelli del PDL, a mobilitarsi il 20 marzo nella manifestazione in piazza San Giovanni a Roma per il diritto a votare in difesa del diritto della privacy. E oggi le critiche a Berlusconi pianano anche da Francesco Rutelli. Il PDL è in crisi e dopo le regionali esploderà, mentre per Antonio Di Pietro Berlusconi se la canta e se la suona da solo. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Nel frattempo resta alta anche la polemica sulla par condicio. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Sarà dunque la commissione di vigilanza RAI ad affrontare il nodo del ritorno sulla TV pubblica dei talk show di approfondimento sospesi fino al voto delle regionali. Sarà ascoltato tra poco meno di mezz'ora il direttore generale di Viale Mazzini, Mauro Masi. L'organismo parlamentare dovrà dare chiarimenti, come richiesto dal CDA RAI, sull'applicazione del regolamento sulla par condicio dopo l'annullamento del TAR della delibera dell'Authority per le comunicazioni. La vigilanza batta un colpo, ha commentato intanto questa mattina lo stesso presidente della RAI, Garimberti, che ha auspicato una soluzione in tempi rapidi. Il tema continua intanto a dividere maggioranza ed opposizione. Quest'ultima chiede un ritorno in video delle trasmissioni di approfondimento. È un fatto di democrazia, spiega Fabrizio Morri del Partito Democratico. Sentiamo. Io difendo un principio. Io provo a spiegare che nella televisione pubblica ci deve essere la rappresentanza di punti di vista diversi. E c'è, viva Dio, perché è stato fatto fare a Vespa uno spot propagandistico sulla consegna delle case per far vedere che il governo aveva subito dato la casa. Ecco, Morri si riferiva alla consegna delle case all'Aquila. Dalla maggioranza la replica è affidata sempre dalla commissione di vigilanza ad Alessio Butti del Popolo della, della Libertà. Ascoltiamo allora Butti. Questi talk devono recuperare l'equità, non devono essere cancellati evidentemente, e nessuno intende cancellarli, ma devono recuperare l'equità. C'è il pubblico di parte che viene selezionato e che applaude a comando e a senso unico, ma insomma. La par condicio va cambiata, ma facciamolo dopo le regionali, dice sempre dal PDL Gasparri. E da Roma è tutto. Le 13:18 minuti 44 secondi, nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato di cronaca da Roma, con l'arresto a Roma del guru di una setta che abusava di alcune bambine. Vi abbiamo raccontato la storia di un uomo che per 2 anni si è scritto una fitta corrispondenza con Matteo Messina Denaro, il super boss latitante del quale ieri sono stati arrestati dei fiancheggiatori. Abbiamo naturalmente parlato di politica con le inchieste di Trani e con la dura reazione del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, e abbiamo anche parlato di par condicio. Adesso adesso andiamo all'estero, in Medio Oriente, per gli scontri in quella che Hamas ha proclamato come giornata della rabbia. In diretta da Gerusalemme, Virginia Di Marco. Sì, la tensione resta alta anche oggi qui a Gerusalemme, del resto è il giorno della rabbia proclamato da Hamas per protestare contro la riapertura avvenuta ieri della sinagoga di Urva, una sinagoga che si trova nel quartiere ebraico della città vecchia. Da stamattina si susseguono le sassaiole da parte dei giovani palestinesi contro le autorità israeliane, sono anche stati bruciati diversi copertoni, due poliziotti sono rimasti feriti e parecchi palestinesi sono stati arrestati. In questo clima incandescente, ovviamente, e non soltanto per quello che la cronaca tra ieri e oggi ha registrato, le vittime più grosse sono stati i colloqui di pace indiretti che avrebbero dovuto essere ripresi proprio in questi giorni. In particolare il segno concreto di questo è il fatto che l'inviato speciale della Casa Bianca, George Mitchell, inviato speciale per il Medio Oriente, ha annullato il suo viaggio in Israele e territori, viaggio che avrebbe dovuto essere appunto l'inizio di queste trattative di prossimità mediate dall'America. Per ora da Gerusalemme è tutto, a voi la linea. E ci spostiamo a Bruxelles, dove si è conclusa proprio pochi istanti fa la conferenza stampa del ministro dell'economia Giulio Tremonti dopo l'Ecofin di oggi, la riunione dei ministri economici di tutta l'Unione Europea. A Bruxelles c'è il nostro inviato Sergio Nava. Sergio. Sì, buongiorno da Bruxelles. Si è concluso con un nulla di fatto l'Ecofin di questa mattina. C'era molta attesa per le proposte di regolamentazione dei fondi speculativi, dei cosiddetti hedge funds, soprattutto extraeuropei. Ebbene, la presidenza spagnola di turno dell'Unione Europea ha deciso di rinviare la discussione, quindi ha congelato di fatto ogni discussione. Vittoria quindi per la Gran Bretagna e anche per gli Stati Uniti, che si erano opposti con forza all'introduzione di nuove regole per i fondi speculativi sul territorio europeo. Per il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha parlato proprio poco fa, è stato realistico rinviare la discussione. Si è tornati a parlare anche di Grecia oggi, perché il premier greco Papandreou ha di fatto minacciato, di fronte ai tentennamenti europei, un ricorso a breve all'FMI. Su questo Tremonti ha detto che sostanzialmente l'Italia intende vedere un po' tutte le posizioni, chiede più Europa, chiede coordinamento sulla vicenda, però il ministro dell'economia è rimasto sostanzialmente molto vago sulla posizione italiana a riguardo del piano di salvataggio della Grecia. E sempre Tremonti ha fatto una riflessione per quanto riguarda il possibile fondo monetario europeo. Si ha detto: il problema comune che abbiamo in Europa riguarda la Grecia, ma poi ci presentiamo divisi al Fondo Monetario Internazionale. Di fatto Tremonti ha lasciato intravedere l'ipotesi che si possa costituire un fondo monetario europeo semplicemente raggranellando parte dei fondi che vengono inviati dai paesi europei al Fondo Monetario Internazionale, soprattutto costituendo una posizione unica dell'Europa in sede di FMI. Per il momento da Bruxelles è tutto. Grazie dunque a Sergio Nava. E di crisi e di ristrutturazioni aziendali si è parlato oggi nella sede di Confindustria, dove per la prima volta è andato in visita un segretario di Stato Vaticano. A seguire la visita di Bertone c'era la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno, è così davvero una visita storica, mai un segretario di Stato Vaticano aveva messo piede a viale dell'astronomia, la crisi economica ma anche l'etica di chi fa impresa al centro del dibattito, occorre fare di tutto per mantenere la coesione sociale, per reimpiegare chi perde lavoro, ha detto la presidente di Confindustria Marcegaglia. Tuttavia ha aggiunto: le ristrutturazioni vanno portate avanti, bloccarle può nuocere alla competitività. La numero uno degli industriali ha parlato anche della lotta contro la criminalità organizzata che sta conducendo Confindustria, annunciando che nei prossimi giorni gli imprenditori vareranno con il Ministero dell'Interno un protocollo per la legalità che verrà esteso a tutte le imprese. Anche il Cardinal Bertone ha espresso forte preoccupazione per la perdita di posti di lavoro dovuta alla crisi, una crisi che non è solo economica, secondo il Porporato, ma originata dal degrado dei valori umani. L'occupazione tuttavia non si può garantire attraverso l'assistenzialismo, perché l'impresa si tutela rafforzandola competitivamente, ha aggiunto il Cardinale, che ha lanciato un invito: dinanzi alla crisi e per coordinare le scelte nelle necessarie ristrutturazioni, si scelga la strada della concertazione tra parti sociali e governo. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi. Vi abbiamo parlato ai nostri giornali radio della mattina dei redditi dei politici italiani, i cui dati sono stati resi pubblici ieri. A questo era dedicato il nostro sondaggio di oggi. La frase più utilizzata è più o meno questa: faccio politica per spirito di servizio. Se guardassi al portafogli, sarei rimasto a fare il lavoro di prima. Difficile a credersi, spulciando l'elenco dei redditi dei parlamentari, anche perché in Italia non è che vivano di sola politica. Gli onorevoli e i senatori fanno contemporaneamente altro: avvocati, dirigenti, medici, giornalisti, imprenditori, con tanto di cumulo di redditi. Possibilità che il 91% dei nostri ascoltatori giudica sbagliata. Negli Stati Uniti, per esempio, chi è in Parlamento non può guadagnare un solo dollaro extra. Ma fare politica anche al di là dell'oceano è un affare. Lo conferma il professor Antonio Merlo, che insegna economia alla Pennsylvania University. Uno studio che ho fatto guarda i redditi dei parlamentari una volta che escono dal Parlamento, entrano nel mercato del lavoro, e i ritorni sono decisamente sostanziali. Per ogni anno in Parlamento più o meno un 4% di redditi addizionali nel dopo. Bianco Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Il 27 marzo il mondo festeggia il teatro, in Italia però le celebrazioni potrebbero essere turbate dalla protesta contro i tagli ai fondi per lo spettacolo. L'ultima iniziativa parte dal Piccolo di Milano. La Giornata Internazionale del Teatro, ricorrenza che si celebra dal 1962, è in programma il 27 marzo. Tutti i programmi a livello nazionale e locale vengono annunciati in queste ore, ma già sono partite le proteste. I primi in questa settimana sono stati gli attori della Compagnia del Sogno, produzione del Piccolo Teatro di Milano, regia di Luca Ronconi. Alla fine di ogni recita a rotazione leggono un comunicato. L'attuale governo investe solo lo 0,30% del PIL, il futuro di istituzioni come il Piccolo e la Scala è a repentaglio. Obiettivo degli attori del sogno è quello di allargare la rivolta del mondo del teatro. Gianluigi Fogacci. Una forma di protesta che era già stata fatta anche in altri momenti. Ricordo io lo feci quando stavo recitando lo Stabile di Torino, l'hanno fatto anche quest'estate al Globe Theater di Roma, alcune compagnie, insomma è una cosa che si fa da un po' di tempo. Certo, evidentemente fatta al Teatro Streller, con il pubblico sempre in uno spettacolo di successo con Sogno Notte Magistrato della regia di Ronconi, ha avuto un'eco diversa e quindi la cosa adesso probabilmente si allargherà. Intanto si minacciano misure drastiche fino all'occupazione dei teatri. L'ultimo annuncio di una protesta spettacolare, quello dell'Antes, era di dicembre, quando si paventò la serrata, che non è però avvenuta. Ma questi 10 giorni che ci separano dalle celebrazioni rischiano comunque di essere di protesta più che di festa. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. In chiusura lo sport con il calcio, una serata decisiva per l'Inter. Provare a dimenticare il caso Balotelli, sapendo che sarà impossibile, in caso di fallimento, non finire sul banco degli imputati e vedersi rinfacciare anche l'ultima guerra di nervi con Super Mario, quella che ha costretto Moratti ieri sera a precipitarsi a Londra per vivere le ore della vigilia insieme alla squadra. Mourinho ha provato inutilmente a far finta che fosse tutto normale. Non lo è, e questa sera a Stamford Bridge ha un solo modo per uscire vincitore: ottenere la qualificazione ai quarti di finale che manca da 3 anni. I dubbi di formazione saranno sciolti all'ultimo, soprattutto il dilemma che riguarda la difesa. Contro il Chelsea va in scena la sfida tra due grandi magnati. Di Moratti si sa tutto: Abramovic ha cancellato con un colpo di penna oltre 500 milioni di euro di debiti accumulati anche nelle stagioni di Mourinho. Entrambi hanno nella Champions un'ossessione. Da questa sera resterà il sogno solo di uno. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchessi, con in regia Pietro Lacorte. Il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.